13.08 prosegue la mattinata informativa sulle frequenze di Blackout. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo. A tenervi compagnia fino alle 12.45 circa, Francesca che vi saluta. Oggi siamo in compagnia di alcuni ospiti che tra poco andremo a presentare. E vi ricordo come sempre anche i contatti per scrivere in corso di trasmissione. Per il telefono fisso potete chiamare lo 011 249 5669, per segnalazioni, cisti, sms potete scrivere al 346 667 3263. Ricordo che questa mattina è stata sgomberata l'occupazione di Via Spano, occupata un paio di settimane fa all'interno della giornata di mobilitazione del 17 gennaio, in cui appunto venne occupata questa palazzina assieme ad altri due spazi qui a Torino. Cercheremo di fare subito una diretta, insomma, per farci aggiornare un po' sulla situazione. Nel frattempo ci segnalano un posto di blocco in Corso Massimo all'altezza di Corso Raffaello, quindi per chi fosse nei paraggi cisti. Sfumiamo il pezzo per andare a fare, come promesso, subito una diretta di aggiornamento da Via Spano, dove appunto questa mattina la polizia è intervenuta per sgomberare questa palazzina occupata ormai da alcune settimane, che aveva dato un tetto sopra la testa a diverse famiglie. Siamo in collegamento con Luca, che si è recato sul posto. Ciao Luca, ci senti? Luca? Vabbè, abbiamo perso il collegamento, lo richiamiamo subito allora e torniamo subito in diretta. They don't know that we are the media. Allora, dovremmo aver ristabilito il collegamento con Luca, che si è recato poco fa in via Spano. Ciao Luca, ci senti adesso? Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutte. Ok, un saluto a te. Allora, come dicevamo, questa mattina la polizia ha sgomberato la palazzina occupata di via Spano, occupata appunto alcune settimane fa, il 17 gennaio, all'interno di questa giornata di mobilitazione torinese. All'interno di quell'occupazione avevano trovato appunto uno spazio, una casa, diverse famiglie. Ti chiederei appunto di spiegarci adesso un attimo com'è la situazione. Allora, adesso la situazione attuale è questa: ci sono 4-5 camionette che stanno chiedendo l'ingresso di via Spano, c'è la polizia in effetto antisommossa, molta Digos, e stanno facendo portare via, diciamo così, le cose delle persone e delle famiglie che avevano occupato uno stabile vuoto che è di proprietà privata, che ha lasciato l'abbandono per diversi anni, parla di più di 10 anni, uno stabile che da quando le famiglie hanno rientrato ha iniziato di nuovo a vivere, tant'è che avevano cominciato già a fare dei lavori di ristrutturazione per vivere in modo più che dignitoso all'interno della palazzina, un quartiere che si è dimostrato subito solidale proprio perché riteneva vergognoso che un proprietario di questo stabile tenesse all'abbandono in malo modo, tant'è che quando le famiglie sono entrate all'interno dell'occupazione la prima volta ci hanno descritto una situazione decadente, proprio incurante dello stesso stabile. Tutte famiglie che avevano necessità e bisogno di un tetto sopra la testa si sono presi questo stabile per denunciare sia il fatto che comunque non avevano un tetto sopra la testa, sia anche l'incuranza di tutta la governance della città, che non sa dare delle risposte reali e concrete al bisogno di casa, e che quindi, come dire, lascia a sé tutta una sorta di famiglie o singoli a vivere in mezzo alla strada, non trovandogli una soluzione. Detto questo, questa mattina verso le 8:30 così c'è stato questo blitz da parte delle forze dell'ordine, che sono entrati e hanno svegliato gli occupanti e gli hanno detto che dovevano andare via. Ad oggi non c'è nessuna soluzione, molte di queste famiglie, tra cui italiane e rifugiati, si trovano da questo momento in mezzo a una strada, e le responsabilità sono sia da una parte del proprietario privato che sotto la scusa che dovrebbe fare dei lavori, ma presumiamo che questa sia soltanto un po' una burla, una falsa, perché i lavori non sono stati fatti fino a qualche settimana fa e non vedo come potrebbero partire da domani in certo. Poi, e l'altra responsabilità è, come dicevo prima, è tutta una serie di istituzioni che, a fronte di proclami di consenso elettorale, non sanno andare al di là e non sanno dare delle soluzioni concrete alla questione abitativa, che ormai ha superato, diciamo così, il livello dell'emergenzialità, perché comunque non riesce a trovare soluzioni concrete, come dicevo prima. Io adesso, se vuoi, qui ho Anna, un occupante che ha trovato casa in questo stabile, e te la passo per farti raccontare un po' da lei com'è andata la mattinata. Tra l'altro ci sono anche ragazzine, cioè figli delle persone che hanno occupato lo stabile, che, come dire, vivono anche un po' il trauma di tutta questa situazione, che non è sicuramente piacevole, vedono molta polizia, molta Digos, che comunque in qualche modo non è sicuramente gentile, ma di tutto in mezzo alla strada, quindi c'è anche un po' tutta un trauma umano legato a questa vicenda, quindi hanno un po' scosso, ma si è dato disponibile per parlare con voi. Adesso il telefono sta... non può va bene, no, comunque noi parlare. Insomma, intanto ti ringraziamo, purtroppo ci ricordiamo anche insomma la reazione già il giorno dell'occupazione da parte della polizia, che immagino su sollecitazione del proprietario aveva subito insomma fatto un po' la voce grossa con gli occupanti, quindi insomma purtroppo appunto la situazione dello stabile era quella, sicuramente il fatto che la solidarietà del quartiere fosse stata subito molto forte era un dato importante. Ci immaginiamo che anche in queste fasi appunto di sgombero appunto la solidarietà del quartiere si sia fatta sentire. Ti interrompo perché Anna mi... Ok, perfetto. Può parlare, te la passo. Va bene, grazie Luca. È pronto? Pronto, ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, un buongiorno a te, anche se immagino appunto tanto un buongiorno non sia stato, però insomma approfittiamo della tua disponibilità per farci un po' raccontare insomma com'è andata questa mattina, che cosa è successo. Niente, che sono arrivati con le camionette della polizia e hanno forzato le porte, hanno sfondato le porte, tra l'altro dove avevo preso casa io avevo messo una serratura, insomma, hanno sfondato tutto, hanno rotto tutto. E niente, cosa vuoi che ti dica? Ma quante famiglie c'erano adesso all'interno della palazzina? 13 famiglie. Quindi appunto da oggi ci saranno 13 famiglie appunto senza soluzione, perché immagino che arriviate tutte da insomma percorsi assieme agli sportelli casa che insomma vi hanno aiutato a trovare soluzioni che altri come il comune ovviamente non sono in grado di dare. Io con la mia situazione risulto morosa, non a causa mia ma a causa del mio ex marito, che comunque non ha più pagato l'affitto, non ha più dato il mantenimento. E quindi io non ho diritto a una casa, e per mettere il tetto sulla testa dei miei tre figli, lo so che è una situazione un po' così, non, però quando sei disperato cerchi di fare tutto quello che ti è possibile. Sì, sì, assolutamente. Insomma, sappiamo che ormai non solo a Torino ma in tutta Italia sono tantissime le persone in una situazione come la tua che giustamente decidono insomma con coraggio e dignità di riprendersi un diritto che dovrebbe essere assolutamente fondamentale, che evidentemente non è tale ma che viene messo in discussione appunto da queste politiche. Anna, noi non possiamo che mandare un abbraccio a te e a tutti gli altri occupanti, con la speranza che insomma presto arrivino nuove soluzioni per voi e che insomma la solidarietà sia forte da subito. E, insomma, ma speriamo anche per la piccolina che è nata stamattina, che era anche lei un occupante, si trova senza tetto su anche lei. Va bene Anna, davvero grazie ancora, un abbraccio a tutti e a tutte. Grazie mille. E insomma questa la testimonianza da Via Spano, purtroppo appunto in queste situazioni poi c'è anche tutto il discorso delle situazioni delle singole persone che appunto da oggi sono in mezzo ad una strada, insomma speriamo che al più presto appunto le realtà che lottano per la casa diano al più presto una risposta. Nel frattempo per oggi so che è stata lanciata un'assemblea alle 17 all'occupazione di Corso Traiano, quindi insomma l'invito a partecipare per confrontarsi un po' sull'accaduto di questa mattina, ovviamente guardare subito avanti. Noi adesso facciamo uno stacco musicale, poi continuiamo con la puntata. Se nel frattempo ovviamente ci fossero altri aggiornamenti da Via Spano, i microfoni saranno aperti. Is it enough to have some love? Small enough to fit inside the cracks. The pieces don't fit together so good. So all the breaking and all the pain. I am still not getting right, but wanna touch the back. Just have seen the darkness in the day, and you must know it is a terrifying sight, because you and I are living the same way. Thank you. 11:31 torniamo in diretta con Parole Ribelli. Come avevo annunciato in apertura, oggi in studio qui invece che abbiamo alcuni ospiti. Innanzitutto Bilal, un compagno palestinese che salutiamo e ringraziamo per essere qua. Buongiorno, grazie a voi. Bilal, appunto, un compagno che in questi giorni è stato ospite a Torino, è venuto anche alla biblioteca autogestita del terzo piano e alla credenza di Bustoleno a raccontare un po' la sua esperienza all'interno dell'Aida Camp, nel quale appunto si trova a vivere, a lavorare quotidianamente. Quindi gli lascerei subito la parola per raccontarci un po' la situazione all'interno del campo, insomma anche la sua esperienza. Buongiorno, come prima, buongiorno a tutti al campo profughi di Aida. E l'ultimo anno è stato cominciato a fare tutti i giorni manifestazioni, scontri contro l'occupazione, contro anche il muro. Come tutti lo sanno, che il campo profughi di Aida e gli israeliani di 2002-2003 ha fatto il muro e avanti questo campo e fatto il muro, e dopo questo quanti fatti questo muro e tutti di Aida e fatti manifestazioni contro il muro, alla fine loro fatti il muro e ha finito il muro e ha aspettato di il campo, di qualcuno fai qualcosa per abbottare questo muro, e mi quanti loro fatto fino ad oggi nessuno ha parlato, nessuno ha fatto qualcosa, e per questo la gente di Aida e giovani di Aida con altri giovani di altri campi profughi di altri paesi organizzati per fare tutti i giorni manifestazioni contro il muro, perché c'è anche di questo muro e tutte camere filmate, così loro no controllo tutti e possono arrestare la gente, è facile arrestare, e non è solo israeliani, perché con l'aiuto della polizia, dell'autorità palestinese, ha arrestato tanti giovani, fino anche ieri il nostro compagno Mohammed Ayman. E questa 13 volte che la polizia palestinese e arrestano lui per queste cose, come loro fanno di polizia palestinese, come loro security della stato israeliani, e queste cose infatti di giovani che cazzare di più e contro la polizia palestinese e la polizia israeliani. Aida adesso come campo profughi vive dentro questo campo profughi 6.000 persone, con a terra 1 km per 1 km, è molto difficile queste cose, che tutto il giorno fanno gli scontri perché la polizia o la polizia israeliana è fatto il campo profughi della zona C, che vuol dire tutti la gente o tutto il campo sotto il controllo israeliani. Come tutto lo sai che la Palestina è tre zone è sotto il controllo palestinese dell'autorità palestinese, e B è sotto il controllo palestinese israeliani, e C che vuol dire tutti sotto il controllo israeliani, come campo profughi di Aida, come loro organizzato tra gli israeliani e l'autorità palestinese, e lui zona E, ma noi non sa come è cambiato tutto questo, è stato adesso in zona C. Ok, sì, infatti ti volevo appunto chiedere com'è la situazione della resistenza in generale. Era appunto anche quello che dicevi tu, che d'altra parte la repressione non arriva solo dalle forze israeliane, ma ci sono tutta una serie di forze che cercano di lavorare contro la resistenza palestinese. Sì, questa non è la prima volta che loro fanno questo, ma il giovane sempre organizzare la cosa e per contra, per continui fare la lotta ai palestinesi, la resistenza palestinese. Noi lo sa bene che anche c'è progetti tra autorità e tra gli israeliani per finire la lotta e la resistenza. E giovani continui a fare la cosa più. Ci sono delle occupazioni in corso? Sì, come noi parlavamo in Palestina, adesso è tra giovani palestinesi, noi parliamo di 3 occupazioni, che vuol dire un'occupazione israeliana di 65 anni, ha occupato la terra, ha occupato la casa. C'è il secondo occupazione, occupazione delle autorità palestinesi, che è occupato il bubolo palestinesi e non lasciano lui libero. E poi c'è la terza occupazione internazionale, e chiama l'ONG, che occupano la testa di bambini che cambiano la cultura, la causa di palestinesi, di tutti questi progetti che stanno facendo. E poi loro dicono: noi è venuto in Palestina e per noi volontari per aiuto palestinesi, e alla fine e non è così, e loro vengono con il progetto in Palestina, e che l'ONG ha pagato per questo, pagano per una persona 1.500-2.000 euro al mese, e allora portate i soldi con internazionali, diciamo così, con gente italiani, portate questi soldi, è venuto in Palestina, fatto questo progetto e poi tornato con gli stessi soldi, non ha lasciato nulla per palestinesi. E poi pagano 80-90% per internazionali, e per palestinesi pagano 10-20% di questi soldi. Sì, quindi è un'occupazione, cioè in un certo senso anche culturale ed economica, con questi progetti. Sì, occupazione, noi dire questo, occupazione non occupazione direttamente, occupazione piano piano per cambiare la causa. Perché questa occupazione, come noi lo sa, palestinesi che ha organizzato questo prima, ho provato prima questo... occupazioni in Africa, e poi visti loro che funzioni bene, e ha portato questo progetto, queste occupazioni in Palestina, non è aiuta, secondo tanti anche giovani, non è per aiuta palestinesi. Di più questa occupazione aiuta gli israeliani, perché per anche soldi, se vuoi entrare in Palestina per aiuto palestinesi, vuoi fare 3 punti come europei, israeliani e poi palestinesi, e alla fine i soldi che è organizzato, che è dato, come dicono tutti i giornali, tutti i canali, che noi ha mandato 100.000 euro e per palestino e palestinesi, soldi va e metà per più di metà per gli israeliani, e poi mandano i soldi che c'è per palestinesi, ma torna con le internazionali che stanno lavorando di queste cose. E quindi secondo te insomma la resistenza palestinese è da sempre insomma guardata con grande solidarietà da tanti altri paesi, insomma, per la sua durata, per la sua forza? Secondo te quale può essere un ruolo attivo di aiuto per chi, insomma, magari come insomma, per chi supporta questa causa? Secondo me l'aiuto è la nostra resistenza, la nostra lotta, e come adesso con tanti paesi al mondo che sta facendo il boicott israeliani, così aiuta la nostra lotta e la nostra resistenza, perché adesso noi vedi bene, leggi bene di tutte le cose degli israeliani che c'è adesso con questo boicott Israele, e funziona molto bene. perché boicottare Israele al mondo, e così tutti mandano il messaggio che anche non è solo che è contro l'israeliano, l'occupazione israeliana, e c'è tanti compagni del mondo stanno contro Israele perché è un paese terrorismo è loro e non è noi come palestinesi. Noi è stato 65 anni anche a cercare di fare la resistenza alla lotta, ma anche fare la baci, e loro che non vogliono queste baci, non vogliono vivere, e non è solo con i palestinesi, no, loro non vogliono vivere con il mondo. Se noi vogliamo parlare di queste cose, vogliono noi tutti a guardare bene della bandiera israeliana. Ti vedi sopra cieli blu e sotto cieli blu, e che vuol dire? Il fiume di Nile di Egitto fino al fiume di Frate dell'Iraq, e questo è stato israeliani. Non è solo occupato adesso in Palestina, fino a quanti loro finisce l'occupazione in Palestina, a buttare tutti fuori i palestinesi, e loro e cominciare dell'altro paese, come noi adesso vedi questo adesso in Siria, che loro stanno facendo. Loro vogliono entrare a Siria, no, loro non vogliono che aiuta i siriani e per la libertà di siriani, no, loro vogliono occupare Siria perché così possono entrare dell'altri paesi piano piano. Ok, quindi secondo te la pratica del boicottaggio può essere una pratica efficiente, non solo simbolica, ma può danneggiare concretamente in questa fase l'immagine di Israele? Secondo me funziona molto bene, sta andando molto bene avanti questo boicott. Noi come palestinesi viva dentro Palestina, noi non posso fare queste cose e boicottare, certo, la cosa israeliana, perché non c'è altre cose, noi posso mangiare o bevio, perché noi sotto occupazione c'è tutta la cosa. Per questo è molto importante fare il boicott al mondo. Ok, senti, tornando un po' alla tua esperienza personale all'interno del campo, tu fai parte di un centro che tra l'altro è anche uno, credo, degli ultimi rimasti. Quali attività portate avanti dentro il campo? Noi come centro culturale è nato subito dopo la prima intifada. È nato con una donna e fatto questo centro, fatto questa scuola, e una di simbolo della resistenza della donna e al campo profughi di Aida. Dopo un anno e lei è morta durante scontro tra lei e gli israeliani. Per questo noi abbiamo messo il nome di lei, e lei, il nome di lei Amal, che significa speranza. Fino al 2003 e noi è cambiato e messo Amal il Mustaqbal, che significa speranza del futuro, perché senza speranza non c'è il futuro. Certo. Per questo noi abbiamo messo tutti e due, e noi come centro lavoriamo con bambini, con i giovani, con la donna. C'è il gruppo di donne, fanno tutti i zaini che fatti alla mano, e c'è il gruppo di giovani che fanno parte della politica e parte della cultura, e poi c'è scuola di bambini di 4-5 anni, questi bambini come c'entro noi, chi è suo padre sta a carcere o sta o morto, o la sua famiglia è poverino, non possono pagare, non pagano nulla e grade se studiano. Come c'entro noi, quanti è nato fino ad oggi, fino anche al futuro, non pensiamo mai lavorare con un'associazione dell'ONG, come ho detto prima, perché associazioni dell'ONG non è associazioni per aiuto a palestinesi, perché se tu leggi alcuni progetti di loro, tu vuoi affermare e dire che ha fatto la resistenza, che ha arrestato, che è morto, e lo terrorismo. Questa cosa è, come anche sentito adesso che sta questa cosa è in Italia e a Valsusa, perché loro stanno facendo la resistenza contro il treno, contro il Notav e tutti. Adesso dicono che è loro terrorismo. Questo io come palestinesi è contento sentire che questo notava adesso terrorismo, che vuol dire che loro stanno andando avanti della nostra anche resistenza, perché si vede i compagni a Valsusa fanno questo, anche noi siamo con loro e aiuta anche loro per fanno la resistenza, perché non solo la resistenza che occupa la terra o occupa la casa. Per questo siamo con voi tutti di Notav, di Valsusa, di terra di Palestina, di Campo Profughi di Aida. Ok, quindi il tuo incontro l'altra sera in Valle di Susa con i Notav è stato un incontro positivo? Sì, io contento come palestinese, come un profugo di campo, profugo di Palestina. Vieni qua e vedi la gente che stanno facendo la cosa, per non è solo per loro. Certo, perché sì. Questa Notav non è solo per la gente che vive a Valsusa o solo per gli italiani, no. Perché questa cosa è anche contro il tutto imperialismo e contro e questi tutti che occupano la terra, la gente. Noi come palestinesi lo sa bene chi sta facendo questo treno, chi è questo, stanno organizzati e lavorati questa cosa, perché loro stanno facendo questo anche in Palestina. Noi non dimenticare questo anche. E tra lotte palestinesi e italiani non c'è differenza, tutti uguali. Speriamo sì, il prossimi mesi, il prossimo anno, che noi vedi la libertà di Valsusa e anche in Palestina. Ce lo auguriamo anche noi. Sentivi, so che sei stato un po' in giro in queste settimane, hai ancora altri incontri in altre città che magari rilanciamo l'appuntamento? Ce l'hai domani a Padova e dopo domani a Parma. E poi dopo c'è a Firenze e poi Pisa e poi Roma. Okay. Poi saluti tutti i compagni in Italia e torna giù in Palestina. Speriamo che torniamo. Va bene, allora insomma rilanciamo anche i prossimi appuntamenti. Ci sarà occasione di incontrare, parlare con Bilal appunto in molte altre città. Noi ti ringraziamo ancora per la disponibilità, insomma per questa tua testimonianza. Grazie anche a voi e grazie a tutti i compagni. Facciamo un breve stacco musicale e poi proseguiamo con la... E per rimanere ancora qualche minuto in tema di Palestina, vado a leggervi alcuni pezzi di un articolo di Nicola Perugini che è apparso alcuni giorni fa sul lavoro, sul sito lavoroculturale.org, che insomma racconta anche quanto le piccole attività quotidiane che altrove possono essere date per scontate vengono invece sconvolte dalla realtà dell'occupazione israeliana. Questo articolo in particolare racconta dell'attacco al campus universitario che c'è stato lo scorso 22 gennaio. Vado appunto a leggervene dei pezzi perché insomma rende bene l'idea di quella che è la realtà quotidiana in Palestina. Mercoledì 22 gennaio, come al solito salgo nella mia macchina abbondantemente in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni. In Palestina non esiste altro modo per far fronte all'evenienza di qualsiasi ritardo che il muro tra Cisgiordania, attuale Israele, i checkpoint e tutti gli altri ostacoli che il sistema di occupazione, colonialismo e apartheid messo in atto contro i palestinesi può creare quotidianamente. È l'unico modo per essere sicuri di arrivare in tempo all'università. Scrivo far fronte sicuri e arrivare in tempo tra virgolette, perché a volte all'università non ci si arriva proprio. Magari perché l'esercito israeliano blocca le strade o le entrate, o perché il sistema dei checkpoint che circonda le città crea degli sostano di fronte all'università. Secondo quanto riportano fonte dell'università, alcune settimane fa l'esercito aveva demolito un'abitazione situata di fronte al nostro campus, considerata un rischio per la sicurezza di Israele perché troppo vicino al muro che separa l'università da Gerusalemme. La mattina del 22 gennaio i proprietari stavano cercando di ricostruirla. Ovviamente la ricostruzione di una casa demolita, in questo caso della strada che conduce ad essa, costituisce in un contesto coloniale un enorme affronto. Cancellare e ricostruire una presenza indigena è al cuore dello scontro tra chi da un lato costruisce colonie e demolisce case indigene e chi invece dall'altro le costruisce e ricostruisce come forma di resistenza. Poco dopo che il proprietario ha iniziato a lavorare con un bulldozer per riaprire la strada, l'esercito è intervenuto. Poco dopo le 10:30 incontro un laureando, usciamo in cortile per discutere il suo progetto di tesi. Poco dopo avergli consigliato di includere nella tesi una sezione su Ariel Sharon, iniziamo a lacrimare. L'esercito ha appena dato inizio alle 5 ore di gas lacrimogeni, spari di pallottole rivestite di gomma, granate stordenti e pallottole vere, che hanno segnato la nostra giornata universitaria. Gli attacchi dell'esercito sul nostro campus sono frequenti, ma questa volta la giornata di ordinaria vita universitaria è stata particolarmente dura. Molti studenti e personale sono rimasti feriti e hanno riportato sintomi di soffocamento. In uno degli edifici del campus il fitto lancio di lacrimogene al piano terra ha bloccato dentro alcuni studenti e il personale universitario, poi usciti con delle scale dopo aver spaccato le vetrate dei piani superiori. Le pallottole dell'esercito hanno distrutto molte delle finestre vetrate. L'università ha messo in atto un piano di evacuazione e fatto uscire parte degli studenti e del personale, ma dopo ore di spari e sassaiole l'esercito è entrato dentro il campus e ha assediato diversi edifici, compreso quello dove mi trovavo io. Intrappolati dentro con i colleghi e gli studenti rimasti, abbiamo incominciato a pensare cosa fare nel caso che i soldati avessero fatto irruzione. Un collega dice: forse è meglio che gli uomini si nascondano in cucina, potrebbero essere arrestati. Proprio un attimo dopo entra l'esercito nel nostro corridoio. Uomini in passamontagna catturano uno studente di fronte ai nostri occhi, a pochi centimetri da me. Escono e lo trascinano via. Continuano gli scontri e gli arresti. Usciamo dal nostro edificio alle 3:30 del pomeriggio. Il personale amministrativo e il servizio di sicurezza dell'università iniziano a valutare gli ingenti danni. Arriva la televisione nazionale palestinese, qualche intervista. Il responsabile della sicurezza dell'università dice: questo è il nostro destino, lo stato di assedio. Dopo 5 ore di accerchiamento usciamo dall'unica strada che l'esercito ha lasciato aperta. Questa appunto la testimonianza di questo docente che insegna in questo campus universitario palestinese. Potete appunto trovare il racconto integrale su lavoroculturale.org. E nel frattempo arrivano alcuni sms al 346-667-3263. Uno che ci scrive che serve gente in via Spano, immagino insomma anche solo per dare una mano a portare via gli effetti personali degli occupanti sgomberati questa mattina. Un altro invece che si riferisce alla chiacchierata che abbiamo fatto poco fa con Bilal, che scrive: grande Bilal, è una gran felicità e forza sentire i discorsi e la solidarietà a Saradura. Quindi immagino un sms inviato da qualche notav che riceviamo e leggiamo volentieri. Enough is enough. 12.08, siete sempre in ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Blackout. Dopo il focus sulla Palestina fatto poco fa, cambiamo argomento, torniamo a commentare una vicenda di cui ci siamo già occupati su queste frequenze la scorsa settimana. Mi riferisco alla vicenda della pagina Spotted Professori Unibo, questa pagina che è stata creata dagli studenti bolognesi per segnalare insomma abusi da parte dei professori. Ne abbiamo appunto già discusso la scorsa settimana assieme a Gigi del collettivo Obo, ma insomma un discorso che merita approfondimenti anche alla luce delle reazioni che ci sono state. Ricordo che la magistratura addirittura ha annunciato di voler aprire un fascicolo di indagini contro i creatori della pagina. Insomma, c'è stata una levata di scudi e di cori di indignazione generale che hanno accusato appunto i creatori della pagina di fascismo, di voler creare liste di proscrizione. Insomma, questo ci conferma un po' che il discorso è evidentemente ha scomodato un po' qualche equilibrio. Allora, per continuare un po' il discorso, siamo in collegamento con Martino del collettivo universitario autonomo di Pisa, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo. Ciao, ciao a tutti. Ecco, appunto, come collettivo avete scritto un po' questo documento che prova ad andare appunto a prendere come stimolo questa vicenda della pagina per provare a ragionare un po' sul sistema della valutazione, che è un discorso insomma sicuramente difficile, perché quando parliamo di valutazione insomma non ci si può né attestare su una sua semplice denuncia, quindi su un piano di insomma di testimonianza, né però insomma rifiutarla del tutto, perlomeno per chi si pone l'obiettivo di provare a costruire qualcosa in università, quindi di non essere relegato ad un ruolo di marginalità. E appunto la prima cosa che ti chiedo è appunto secondo te come si può provare a ragionare, a mettere in discussione il sistema della valutazione all'interno delle mura universitarie? Sì, sicuramente i ragionamenti che ci siamo fatti come compagni e come compagni, ma in primo luogo anche come studenti, vivendo quotidianamente gli stili di vita imposti dentro le aule di lezione, durante gli esami, partiva dal fatto che non esiste un fuori dalla valutazione all'oggi. Qualsiasi elemento di vita all'università, ma direi non solo all'università, in qualsiasi diciamo servizio erogato dallo Stato in quanto soggetto pubblico, vive nel regime della valutazione. E dunque appunto approcciare questa problematica qui in termini conflittuali non può voler dire ritrarsi, non può voler dire costruirsi un impossibile fuori che definirebbe semplicemente appunto, come dicevi anche tu, una marginalità. Il problema è sempre quello del rapporto di potere che la valutazione istituisce, e dunque come stare dentro questo rapporto di potere per agirlo contro. Queste qui diciamo risultano essere dei ragionamenti preliminari per porre ovviamente la questione di quali lotte rispetto alla valutazione, rispetto al regime della valutazione. Ovviamente spesso negli anni ci siamo dotati di strumenti analitici, di ragionamento, di approfondimento teorico, di ricostruzione anche giusta e necessaria delle genealogie del potere che istituiscono determinati dispositivi, determinati regimi di comportamento che ci vengono imposti, però questo non ci può bastare, pensiamo che bisogna iniziare a sperimentare, fondamentalmente è ciò che ha di interessante l'iniziativa di Bologna, di Spotted Professori, e anche il suo carattere di sperimentazione, il fatto che inizi partendo da degli strumenti di comunicazione che vengono utilizzati in massa, come i social network ovviamente, che dunque stanno su dei comportamenti reali, su dei comportamenti che si riproducono, come riuscire a stare dentro questi strumenti per provare a inserire degli elementi discorsivi che provino a raccogliere un giudizio, una sensazione, degli umori comuni che all'oggi non passano, perché appunto costituiscono un po' l'insieme di comportamenti normati, e come invece riuscire a inserire all'interno di questi strumenti qui una nota dissonante che non sia di semplice denuncia, ma che inizi a costruire, abbiamo detto noi, un giudizio contro, ma potrebbe essere, diciamo, anche solo l'espressione di una proposizione collettiva che riesca a riassumere dei comportamenti di alterità e inizi ad articolarne il loro sviluppo, ecco. Sì, infatti, insomma, come appunto alla luce delle reazioni molto forti che ci sono stati, come dicevi tu, appunto quello che ha disturbato particolarmente di questa iniziativa è il fatto che ha messo proprio in discussione dei rapporti di potere, perché appunto, come dicevi, quello della valutazione è un rapporto tra un valutato e un valutatore, tra cui necessariamente quindi si instaura un rapporto di potere, quindi metterlo in discussione vuol dire in un certo senso cercare di riappropriarsi del diritto di valutare, che è un discorso che può valere in università come in altri ambiti di lotta in cui insomma molti di noi magari si trovano anche a vivere tutti i giorni. Certo, sì, innanzitutto poi la questione dei rapporti di potere bisogna necessariamente fare lo sforzo di coglierla all'interno dei ruoli che sono espressione di questi rapporti di potere, ovvero in ultima istanza delle gerarchie che i rapporti di potere strutturano. Per la prima volta forse un tabù in qualche maniera si prova a rompere oggi anche a partire da questa iniziativa di Spot e di Openso, quando viene messa in discussione la natura e il carattere del ruolo della docenza all'oggi. Spesso, ad esempio, anche i movimenti universitari hanno un po' vissuto di questa ambiguità, del fatto che la figura del docente fosse una figura neutra, in qualche maniera super partes, da qui anche le assemblee in piazza, le lezioni in piazza che tante volte abbiamo visto nel corso dell'onda, ad esempio, oppure penso alla questione del ruolo dei ricercatori durante il movimento del 2010. Bene, non bisogna dimenticare però che queste figure qui, in quanto nodi baricentrali della gerarchia universitaria, sono state spesso usate e si sono spesso assunte in prima misura l'opera in qualche modo di trasmissione e di attuazione e di un corpus di valori della riforma valutativa anche, e dall'altro lato hanno in tutto e per tutto poi andato a strutturare su dei livelli bassi l'imposizione dei comportamenti nei confronti invece di un corpo sociale basso, che è quello poi che attraversa l'università, quello che di cui dovrebbe godere che dovrebbe godere dell'università, che è quello studentesco. Ora il problema appunto è anche come riusciamo in quanto studenti, in quanto precari, a mettere in discussione la natura di questo ruolo qui, perché appunto non esiste una sua funzione neutra, non esiste una sua funzione neutra, e i caratteri invece di questo ruolo qui vanno oggi messi in discussione, assolutamente, vanno oggi attaccati. Questo ovviamente va a investire anche una questione piuttosto delicata, ovvero da un lato il fatto che noi dobbiamo assolutamente confrontarci con un impianto categoriale che tutto sommato è del nemico, ovvero il fatto che le questioni del merito vanno affrontate dal punto di vista del merito di chi, il merito chi struttura, chi definisce quali sono i criteri di merito a oggi. La valutazione, ancora, la valutazione di chi? All'oggi abbiamo il merito e la valutazione del nemico contro di noi, contro i comportamenti base della società, contro chi all'università è costretto per restare all'università è costretto a fare mille lavori, eppure sono di questi giorni anche le notizie, ad esempio, di come vengano ulteriormente posti degli sbarramenti su dei livelli bassi della composizione sociale universitaria, ad esempio per quanto riguarda i concorsi di abilitazione all'insegnamento, anche come sbocco reddituale immediato dopo l'università. Ebbene, come ribaltare questi dispositivi qui? Per fare questo pensiamo sia necessario confrontarsi su questi elementi, su queste categorie spurie, per agirle contro in qualche maniera, dal merito alla valutazione, ovviamente andando a rompere il codice meritocratico e il codice valutativo per quello che è oggi. Un altro aspetto delicato, intraprendendo in via esplorativa questa iniziativa qui, è quello che riguarda le identità politiche di movimento. Delle dichiarazioni che ci hanno parecchio incuriosito a seguito dell'iniziativa di Spotted Unibo sono state quelle, ad esempio, di un prorettore agli studi dell'Università di Bologna, che diceva: ma fino a qualche anno fa queste pratiche qui non erano assolutamente pratiche riconducibili ai collettivi della sinistra antagonista. Bene, se pensiamo che se un prorettore arriva a dire questo, da un lato le pratiche che lui riconosce essere dei collettivi o dei movimenti antagonisti entro università fino all'oggi non hanno funzionato, c'è qualcosa che non va bene, ecco, appunto il fatto che non vengano riconosciute, che non stiano poi nei comportamenti sociali, ed è bene sottrarsi, insomma, da queste narrazioni, quando queste narrazioni qui vengono padroneggiate dalle controparti. Sì, tra l'altro, appunto, ricollegandomi al discorso sul merito che facevi tu, credo che anche insomma uno dei primi aspetti positivi di questa prima sperimentazione della pagina sia di aver dato insomma uno spazio pubblico a quelli che sono piccoli rancori quotidiani degli studenti, che però appunto rimangono poi tali e che non vengono indirizzati verso una messa in discussione del sistema meritocratico, del sistema della valutazione, ma che piuttosto vengono poi giocati contro gli stessi studenti in una sorta di competizione spietata, per cui appunto questa questione del merito viene poi ribaltata contro, e queste appunto questi piccoli rancori, che poi appunto nella pagina se ne trovano tanti, rimangono poi insomma individuali e non trovano appunto uno spazio di espressione. Certo, come dicevo prima, appunto si tratta di uno strumento esplorativo di mappatura, nel senso che iniziano a venir fuori, a manifestarsi, come dicevi tu, dei rancori, dei sentimenti e delle passioni, possiamo dire in qualche maniera tristi, che però sono quelle che viviamo quotidianamente all'università. Il punto sta non nell'attestarsi rispetto a questi comportamenti qui, a queste espressioni qui, ma come, a partire da una loro manifestazione, riuscire a darne una ricomposizione politica, ovvero riuscire in qualche maniera a sviluppare questa prima uscita dall'anonimato, perché appunto uno degli elementi che ha destato maggiormente scandalo rispetto a questa operazione qui è stato il fatto: sì, ma queste denunce qui sono fatte in forma anonima. Certo, sono fatte in forma anonima perché all'oggi i rapporti di potere che si danno dentro l'università non impongono uno spazio pubblico, non permettono uno spazio pubblico di queste denunce qui. Allo stesso modo però non possiamo attestarci alla semplice denuncia, alla semplice messa in circolazione di queste informazioni, se queste informazioni non riusciamo ad articolarle dentro un discorso collettivo, ovvero che questo anonimato iniziale inizia a diventare una parola comune, una parola di tutti, un'occasione per iniziare a esporci assieme e dunque ad attaccare dei livelli che strutturano i comportamenti che impongono poi questa sofferenza dello stare all'oggi nell'università. Sì, infatti appunto ti avrei voluto appunto chiedere questo, visto che molti commenti negativi si erano indirizzati verso questa questione dell'anonimato, ma insomma hai già toccato l'argomento tu. Martino, io ti ringrazio, sicuramente ci sarà modo di proseguire, approfondire questi discorsi nelle prossime settimane, perché appunto questo è solo un piccolo primo passo, ma ci sembra insomma che anche alla luce dei primi risultati insomma stia andando nella direzione giusta. Noi per ora ti ringraziamo e ci risentiremo insomma presto anche a questi microfoni. Va bene, grazie, un saluto a un tutti. Un saluto, ciao. Ciao, ciao. Allora, questo, insomma, per continuare un po' i discorsi iniziati già nella scorsa puntata, adesso facciamo uno stacco musicale e poi ci avviamo a chiudere la trasmissione. His outlandish attire, he's some sort of free-thinking anarchist. I'll call security, sir. Bad girl ignored. I'm 105.250, vado a concludere la trasmissione di oggi presentando un appuntamento che si terrà domani alla biblioteca autogestita del terzo piano a Palazzo Nuovo. Ci sarà un incontro con Niklas, un compagno di Amburgo e membro del gruppo Ultras del St. Pauli, che andrà un po' a raccontare quello che è successo appunto ad Amburgo a partire dal 21 dicembre, quando decine di migliaia di persone sono scese in piazza per difendere il centro sociale Roteflora dalla possibilità di uno sgombero e per rivendicare degna accoglienza per i profughi della città e opporsi ad un progetto speculativo che vorrebbe radere letteralmente al suolo centinaia di alloggi appunto nel quartiere St. Pauli. La polizia aveva impedito alla manifestazione di muoversi, creando una vera e propria zona rossa e scatenando feroci scontri che causarono centinaia di feriti sia tra manifestanti che tra le forze dell'ordine. Una settimana dopo, il 28 dicembre, la polizia e i mezzi di informazione diffusero una notizia poi rivelatasi falsa, che affermava che alcuni poliziotti di un commissariato erano stati attaccati, che uno di questi si trovava in fin di vita. Questo contribuì ad alimentare un clima di tensione in tutta la città, che giustificò misure repressive senza precedenti, un vero e proprio stato di eccezione che venne instaurato ad Amburgo. Tant'è che pochi giorni dopo, il 4 gennaio, la polizia dichiarò zona rossa tutti i quartieri di St. Pauli, Altona e Schanzerviertel, scusate la pronuncia pessima, instaurando di fatto un coprifuoco su una zona abitata da 100.000 persone in cui la polizia godeva di pieni poteri e poteva arrestare preventivamente chiunque semplicemente ignorasse anche solo il divieto di adunata. Insomma, questo sarà un po' il preambolo da cui partirà l'incontro per insomma, però discutere anche più in modo generale di chi ad Amburgo si sta opponendo alla speculazione su questi quartieri, chiede diritti per tutti, appunto è stato criminalizzato con forza in queste settimane. Ci sarà appunto modo di discuterne con Niklas, di insomma fargli domande per chi vorrà. L'appuntamento appunto alle 21 a Palazzo Nuovo in via Sant'Ottavio, alla biblioteca autogestita del terzo piano, al secondo piano interrato, insomma vicino alla Celid. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. To rock around. Little girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. Hands tricky to rock around, to rock around. That's right, on time it's tricky. It's tricky, tricky, tricky. Hands tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity 'cause we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's in. 12.37, allora anche per questa settimana vi saluto, vi do appuntamento con Parole Ribelli a martedì prossimo, sempre dalle 10.45 alle 12.45, non cambiate frequenze, tra pochissimi minuti andrà in onda il GR di Blackout e poi Cattivi Pensieri, quindi buon ascolto sui 105.250 e risentirci martedì prossimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Francesca.